andare bene per pompare deve mettere almeno fino a 3 mm e poi anche il cavo deve cambiare, se metterci quello basta l'altro cavo a posto del 58 l'altro, capito? Allora sì che esiste il VAT, il discorso è quello. Allora adesso vediamo un po' se adesso come arrivo anche lo guarda un po' meglio di 8 9 è piena, hai visto? Adesso già ci siamo, 100 watt quasi, tondi tondi. Ah, la voglia arriva. Beh, c'ho quello piccolo, c'ho quello grosso. Devo cambiare anche il capo di discesa io. A parte il palo, se vuole andare bene. C'è 1,4 di stazionale, figurati. Quindi, vabbè, ma tutto il palo, il cavo ce l'ho qui da una parte, del vicino 113. Devo solo installarlo e basta. Solo che non lo faccio adesso, lo farò in seguito. Prima rimpiazzo le staffe, faccio i buchi, metto le staffe davanti alla vista della mansarda, poi piazzo il palo. Lo so, devo piano piano, così almeno posso girarlo, posso fare i lavori che voglio. Quando mi arriva sopra il petto, alla petta del coso, del ginocchio, lavoro benissimo. Capo, devi fare un buon lavoro lì, se vuoi fare questa roba qua, capito, Antone? Lo so, infatti è quello che voglio fare. Una volta voglio stare a sellarmi con quel palo e ciò che è diventato bianco di colore, palo d'acqua, la pelle è piena di ossido e non fa più neanche più contatto, capito? E quindi c'è poca massa. Ciao, già lo so già. Ora, uscendo, sì. Ah, voglia, guarda un attimo comunque che stavo andando a portarmi la pizza, una seconda. Ciao, è bello. Aspetta che stavo mettendo le mutande, un attimo. Con la cuglia un po' fuori. No, spegniamolo. Luca con la cuglia un po' fuori. Ehi, Natalia, fai che sei così di modulazione. Cosa, Anto? No, ti senti un po' basso. Perché c'avevo il microfono lontano, capito? Ho capito, Natali. Vedi, c'è cosa? Curiosità, com'era? Luglia! Ma è comulo, eh? Luca con la cugliupa fuori. Tu lo sai? E? È vero. E è vero, oi. Mamma mia, ho messo. Lasci a vedere, poi c'è una ragazza che si stava lamentando un attimino nel gruppo mio. Due secondi arrivo, sono scappate. Dai, che signor Gasino, che aspetta. Tanto questo qui senza le mutande va in giro, boh. E che ce l'ho fa? Niente. Senza le mutande. Che terrore. Ieri mi ha piazzato il baracchino nella macchina, capito? Mi ho fatto l'impianto e c'ho l'antenna magnetica. Stavo parlando con Luca. E già me l'ha detto via. E poi vabbè, io non c'ero tutto il mazzano, quindi non ti potevo rispondere, capito? Però un piano. Capito, Natalia? Eia! E stamattina sono uscito e non ho avuto tempo di mettermelo in macchina, capito? Sono uscito ma stava facendo freddo ed ero in fretta e dovevo andare a comprarmi un trapano perché mi ho preso i tasselli per le staffe e siccome il trapano non funzionava bene me l'ho comprato nuovo stamattina. Ho preso la punta pure per i tasselli. ragazza ma sopra che sta Game Master. E appena fa un po' di tempo caldo, va, si fa una di disori, lo vemo. Ah, prima mi piazzo i staffi, già pronti. Una volta che sono pronte le staffe, basta una giornata di sole, uno e ce la saliamo, non ci vuole molto. No? Vabbè, non c'è problema. Funziona ancora, mi sono stordito, poi c'è una bustina, nuda, come è passata? Cioè, mi ha calmato un po'. Ci soffro con una belletta del mal di testa. Troppo sesso. Grazie, Natalia, per carità. A me mi viene se non lo faccio il sesso. È più gana, no? Non c'ho più un ragazzino. Cioè, sicuramente Mario arriva a 50, poi torna, puff, riparte il boom. Come non ho capito? Beh, non sono più un ragazzino, prima ragazzo non me li dà zia. Che pizzina, e pagosa quanto sono mari. Mi facevo fatica a farmela dare. E tu le pigliavi la sconfidata come faccio io. Si va a dire Raus! Ragazzino, e allora nelle tracce il perizoma subito. Alla sconfidata. E oia, la carità. Un lavoro era prima, va. Un lavoro. La madre la poteva faccia. Vedi. Quel gusto. E poi devi soffrire, ma non in quella maniera però. Magari prima ti vedevano un ragazzino e allora questo no, troppo ragazzino, non te ne davano per quello. Adesso vedono un uomo maturo, magari. Potrà una bella pratica di fare dall'albero. Una bella pratica. E tu? Ma sono maturo, vabbè. Siamo entrati nei 48, Ehi, vabbè. Guarda come va la vita, se vuoi fare. Se sei sui 48 sei già un distinto signore di mezza età. Certo. E chi lo sa di più? Ti devono dare anche del lei adesso, Lu. Mi devono dare del lei? A me mi danno del lei, mi danno. Vediamo, bravo, ogni tanto, non mi dà fastidio. E a Bombolino Bomboletto non gliele danno perché è troppo ragazzino. Anche io non viraggio. E cosa rentra la villa? Curu Luca Candera Bizzino ha detto i nonni di Daziani. Ma anche no, ma non sto scherzando. Oh signor. Ma sono gentile, potete darmi. Quando non sei vivi ti davo un'età, così è. Ma è fatto un paio di anni, Poi per carità, vabbè, altro non c'è giovane ancora. Vabbè. Allora, io vi dico una cosa, uno ha fatto i vaccini e non sono in forma, è proprio scarso, ma parlo di, come si dice, fisicamente. Che non sei tanto in forma, là. No, non sono in forma di formaggio. E io invece già mi sento bene, mi sto riprendendo, là. No, io sto bene, la verità. E mica io ne ho passato. La verità, Natali, ti devo dire, io sto bene. Non sono, anzi, io sto facendo molta attività a piedi, capito? Molto movimento. Come si dice? Molto movimento e quindi sono sempre di fisico, sono sempre più forte, capito? Lo so, magari potessi andare io. Io come cammino poco mi fa male subito la gamba, c'ho questo difetto qua che mamma mia. Ma un dolore tremendo mi viene. Ma io non fumo nemmeno però, Non ho vizi, non so niente. Quello conta molto, capito? Come non è vero? vizio che ho, sai cos'è? Bermi la birra e campare, boh, quando è. Ma se no io vizi non ne ho. Ma quasi senti, a chi ho vizi faccio? Ma buffonenti di o cosa? C'è campare a te, quello non è un vizio. Vabbè, che a chi piace, comunque è un, diciamo, un aperitivo, come lo vuoi chiamare, è schifoso che ci sta in commercio. No, è un bel buono, non è schifoso, no. A me mi piace un bel... Ah, cosa raggio, mago. Vedi, Sara, vabbè, fuma, però non beve, e vabbè, tanto, non sei un gnadino, alla fine già va bene. E io non sto più fumando, sto fumando la sigaretta elettronica. E in realtà io, la sigaretta è maledetta, mi sembra così, ma con gli anni, purtroppo lo so, non è semplice lasciare la sigaretta, l'ho lasciata così, ma veramente punta in bianco, non stavo bene. E sono passati già quasi 14 anni. Dal 2008 a questa parte, quasi 14 anni sono passati. Faccio 14 anni a novembre. Non so, mi ricordo se il 13 novembre o 19 novembre, non mi ricordo. E io invece sono da ragazzino di 14 anni che fumo. Sarà un mesetto, dai. Che nato avete? Io sì. Io ho mangiato patate con carciofi, mi ha trovato la buia, sì. Cazzo, attento non ne fare a l'usuraggio, mi. Già lo so, con niente conveniente sono fatti trudiarsi, che sono patate con carciofi. Ma non è detto così. Ognuno dice la sua. Oh, ya, sono buoni i carciofi. A voi, ya. Se fai chiare in ciglia. Davvero, mi basta che faremo la cartoffa. E facciamo. Mi pure no che voleva la cartoffa, te lo diamo. Sono buone, sì. Poi ti fai la carciofa, che tipo di carciofa? Ma ora cucinati un'altra, è buone. Buone. E sono buoni, sì. Sì. A me piacciono degli asparagi. Ma con quest'anno ci sono riuscito ad andare, porca paletta, ma... E come ti mai? Perché mi sono organizzato con il signor Pasqualino, uno che abita vicino a casa. Sono rimasto, andiamo, però... volevo chiedere a Gianni, doppio room, ma... che l'ha più sentita Gianni? Domanda a Viru! Domani non posso. Vabbè, poi anche gli impegni, non è che... Anzi, sono andato con Danilo, però abbiamo trovato pochi. Ma con Danilo chi ci mi? Con lui? Ehi, aia. Chi è di positivo, fratelli? Sembra così, ma è così. Mamma, e esci, cazzo. Fa il culo. 2 ore piazzando il sacco. Dalla cosa, non mi piace. Nemmeno. Non mi sento di piazza questa cosa, che no, non mi convince. Che strana. Non mi convince assai, ho proprio trovato il contrario. C'è che tu carica. Strano. Vabbè, Natali. Sì, siamo qua. Sto aspettando perché mi devo misurare la glicemia e farmi l'iniezione. E da voi mi ci goffo. Piano piano, Natali. Pure che c'è glicemia, pepuria. A rompere le scatole. Pazienza, è cosa di pure. E purtroppo non ci puoi fare nulla. Beh, se io potessi veramente fare, fame perché ho avuto la pancreatite che mi è venuta, se no non mi sarebbe manco venuta, perché già stavo attento, io lo sapevo che ero predisposto e quindi stavo attento a quello che mangiavo. Pure una pancreatite. Quando sono stato ricoverato è per la pancreatite. Poi ho subito anche due operazioni, figurati. Ho già due ricoveri mi. Sono sicuro che ne ha avuto una tale. Mamma mia, guarda. Speriamo che baci a Parabà. O no? Sì, speriamo di sì. Adesso speriamo che la pressione si regolarizzi, perché sono messo male veramente. Vengo da Caglie. Speriamo bene a tali cazzo, non si può. Vivi così, mamma mia. Non vedo un casino. Che parola. Questa è una mangiata di merda. La morte in faccia ho visto, questa volta me la sono salvata. Va bene, l'importante che lo racconti con noi, almeno siamo più felici. E infatti oggi mi hanno visto due amici, hanno detto te poco sei magro, ed io mi sono ripigliendi e arrivi da 52 kg che... Adesso ne peso 65. Meno male. Meno male, dai. Vivo pazienza, non è. Non è possibile. Purtroppo sono cose che succedono. E non sono cose belle. Figlio una cagiavetta. Si è rotto le palle, c'è così. Beh, se dentro quella cassetta. Purtroppo è importante raccontarlo, poi purtroppo succedono le cose, le sono rotture di scatole, casini, problemi, ma state zio, cosa è tanto zoguzzego, in che condizioni sono proprio, babbo. Vabbè dai, ci aggiorniamo domani, io me ne passo in QRT, ciao Luca, ciao Antonio, chi altro ci fosse in ascolto, alle prossime, dai, QRT per me, ascolto il finalino e poi chiudo. Ciao Natali, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao, buon tutto, ciao ciao. Ciao Natali, buonanotte, sono Concetta. Adesso ho ricambiato. Beh, come ti andendi da situazione, Luca? Con Ghita, tutto bene? Come si dice? Sì, dai. Mamma mia, che ogni tanto ve ne una. Speriamo che si chibacchi, a me. Non se può. Piano piano. Tanto piano piano. Sì, cosa strana questa cosa. Vabbè. Come si dice, piano piano. Tu credo che sempre andente. Papà. Oh, ya, yeah, secondo che ne abbia fatto questa cosa. Strano. Ah, ma proviamo a tirarsi le binocchia, vedete, perché un po' deve andare, cazzo. Non può stare così questo cazzo di bobina. Cazzo, l'unica parte che andava è così. Non andava però così. Era un po' più su. Sale questo QR mi di botto, boh. Io non sei il solo che lo fanno. Pure a me un po' di volte. Mi rubate il QR, non sei il solo. Ma ti credo che può apparecchiatura che ti fa vedere prendici il gabbo. Che è te che è? Una che sa molla di che c'è antenna, che era la Gursi. Che tu non vai a tuo sistema sul gatto da cosa. Capito? Che cosa è la? Lascia fare così e basta. Trovare un altro acquirente. Ehi, e io non vado giù di naso, se mi ho rotto in balle l'abbiamo la imbigliato in due, avrei messo giù la parte, me l'avevo tenuto io. Mi aspetta, io sto per farti vedere, mi aspetta. Alla foto, a foto. Guarda, questo qua è il calvo, questo è il calvo. E questo è il prezzo. 71, guarda sotto che c'è anche la spesa di spedizione. 71 più 14 fa 85, 100 metri, 50 ohm, 100 metri, radio, antenna, cavo H155, low plus, per CB radioamatori. Purtroppo ci vuole quello, inutile che metto un cavo che non andava, capito? Ci vuole per forza quello lui, tutte che metto un cavo che non va bene che andano. Ma non rende come deve rendere. C'è qualcuno che non vuole. No, me ne sono trovato 33 metri, 34 metri, da. Senti, qualcuno, non so, se non erro lo voleva Andrea, non lo so, vedi un po'. Fai circa 30 euro a testa, sono io, 20 euro, io lo danno in circa una spesa lì. Una cifra del genere sono. Vediamo. Ti ripeto, io non faccio di nasi, no, le restanze me le avevo abbigliato io. Gli serve sempre. Se abbiglia luce. Una vita è qua. E ci siamo. Una vita. Sentire qualcuno che lo vuole, ci dividiamo le spese, capito? Non se ne parla, addio. Quando mi date l'ok, lo ordino e poi mi date i soldi. No, non c'è problema, adesso vediamo. Secondo come te me lo piglio tutto, cioè quella parte là me la prendo io, capito? Vediamo un po' come va la situazione, capito lui? E non c'è problema. Tanto serve sempre, poi se qualcuno lo vuole. Certo. Ma se lui, i cosi c'hanno tutti una cosa obbligatoria, lo sai. Non devono scendere più di quello. È per quello che hanno questa vita particolare. Manco male che è compresa, e ogni volta uno deve uscire di capo a battere un'antenna, capito? Questo qua lo sto stringendo e via. Io ho tutte le fascette pronte. E poi piano piano con calma. Tra sistemi. Abbiamo fatto in dotazione anche le staffe, che mai con la ringoccia ho avuto le staffe io, quelle per mettere il palo, capito? Certo che sì. Piano piano. Adesso, la signora Gozanza, e non lo arrivava, fanculo, devo fare lo screenshot. Non so come fare, non mi dice che... Allora, è possibile acquisire la schermata a causa dei criteri di protezione. Non posso farlo. Ma non ci avessi preghita, tra un po'. Ma ti prendo mal di testa, guarda. Ma c'è un buco di testa, per diventare un galascio. E via, chissà, non la ricerca, capito? No, ritiro tutto, ma chi no, in epoca cesara, se no, è un casino. Volevo vedere come era fatta, ma che andava, chissà, quando sarà parata e tutta la cosa vorrà tutta vulcanizzata. Sì, atto, rimuni, rimuni, poi con calma, tra piazzi, senza fretta. La cosa è chiara, se no acciappo un capo che voglio io non è piatto. Perché non te che io vado a mettere un capo, che è coso, e poi non devo capare. Certo, mi porto un culo a fare un travaglio e poi non devo capare perché magari non mi va bene. Probabilmente metto un capo buono, non metto un capo da cepituno. Non pensi? Vedi che io il capogrosso non l'ho fatto meno male, questo che c'è adesso, c'è un po' di anima, è buono ancora, capito, è buono. E non lo è, finché va, poi quando mi compro questo qua, che compriamo questo me lo cambio. È più maneggevole, che se tu capo è stessa, qualcosa a mano, non ti va di qua nulla. Non è semplice, fare il PL è un po' difficile anche tu. Perché lo devi fare con la... io uso il coso, no? Il bravitare, il... oh, come si chiama? Ma il... la tenaglia, no? Bravitare. Un pappagallo. No, la tenaglia. Oh, no. L'oraggia. Ma guarda, ho utilizzato quelli di Fusaro, già vanno bene. Io non devo caricare a bomba, capito? E vedrai che poi già va bene, dai, e capi vogliono buoni, inutile, ci vuole non si fa un cazzo. Non so quanto tiene questo cavo, è la caccia del 55, non lo so. E lui ha tenuto fino adesso, è logico che tiene, capito? Che cosa? Ma stai dicendo l'H155? Eia, non so quanti kilowatt tiene, un chilo, ma tanto noi non idratiamo di roba potente. Cioè, io tenia, già regge. Allora, il cavo che ho io, il 213 dopo a casa, ed è buono come cavo, ancora è buono, anzi, quello dura un bel. È buono, sì, cavolo. E dura anni anche. Sì, infatti. Poi doppia calza, poi c'è il centrale lo stesso che è abbastanza grosso, capito? È come la caccia, c'è il centrale come la caccia del 55. So che questo qua è più grosso. Non penso proprio, quello del 213 è più grosso. Leggermente. Va benissimo, l'unico problema è che avevo il PL un po' ossidato, l'ho pulito. E infatti ho notato che in queste ispezioni che ho, c'ho un PL in porcellana. Di quelli buoni mi ha lavato la banana, mi ha detto le Chopin. Ma di... no, la banana mi ha detto le Chopin da me, le Alan Verde. Ah, ho capito. Ma dove ce l'hai quello? In casa? Sì. Quello era meglio sul tetto. Ma c'è anche... no, sul tetto è in macchilite. E andava. Però era tutto ossidato, gliel'ho tutto pulito bene. No, vabbè, sta funzionando tutto bene, tu non è che... ma che ci sono problemi, l'ho tutto pulito con la spatola, capito? E va benissimo. Ma già va bene, non c'è problema, capito? Piano piano, via. Riesci che andare a farmi la doccia, va, non è più gana. Mi ti dromo un po' comunque, c'ho un sonno da paura, c'ho. Ciao Lu. Ciao, tu buonanotte, saluta Sara, ciao. Ciao, ti saluta. Allora, fammi la doccia, oh, stazionare, 1-1, manco si muove. Pure io. Ehi, Adame, ciao. E poi vado la partita un po' come ti dromo, ciao. Ciao Lu, dai. Io vado a lavarmi, ciao.